baracchino per baracchino, non devo staccare niente io. Sì, vabbè, io ci vuoi rullare con la me. Stacchi un piede e lo metti nell'altra radio, tutto lì, non devo stare diversi così, o c'ho praticamente lo spezzone attaccato. Non sta uscendo. No. Non stai uscendo già? Non si è uscito, doppio root. Io ho premuto male forse. Guarda, scendo sto. E io, adesso sì. Roba è questo bene va al Midland? Sì, ma è meglio l'altro, il pugno mi piace di più. Oh, yeah. Questo mi dispiace. No, ma non è così. Dai, tanto non ti piace. Cosa già? Ho detto non a me il Midland, che non ti piace. A me? No, veramente Roberto che ha detto che non le piace la modulazione. A me il Midland le piace perché è molto bella. Avevo proprio discorso l'altro giorno con un amico, ma ha detto, mandami la foto, che ti mando quella mia, mandami la doia. Mi ha mandato la sua, poi gli ho mandato la mia. No, cazzo, questa è molto bella. Ah, Milton, hai già ragione. Questo spinge un po' di più, mi sembra, così. Questo sai perché spinge un po' di più, lo sai, te lo dico. Perché c'ha il microfono, il turner e il fanculo, l'MB più 5 che non ha la capsula originale, mentre il Pony ha l'MB più 5 con la capsula originale. Questo invece è un microfono che ho comprato usato e l'ho dovuto mettere qua, però non ha la capsula originale, questa è la capsula più da combattimento, capito? Eia, no, ma io non ho detto che c'è una cagata, lo stai dicendo tu. Ho detto mi piace come modulazione, quella del Pony è più bella, più naturale. Perché c'ha il microfono originale, capito? Mentre invece questo è modificato il microfono, quindi senti magari la tonalità diversa. Eia, vabbè, già vanno bene tutte, sono chiare tutte, niente da dire. Non c'è distorsione e saturazione, perché molte volte magari abbini il microfono brutto, si sentono cose strane, è troppo compressa. No, la voce è buona, considerando sempre che è un baracchino, quell'altro di prima era un altro giocattolo, per cui la modulazione era totalmente diversa, il primo che avevi. No, vabbè. Sono tutti baracchini, io definisco tutti baracchini. Come ho già detto prima, chi funziona meno, chi funziona più, però sono tutti funzionanti, i microfoni sono tutti uguali proprio per non avere cambi di modulazione. Però c'è qualche microfono che è modificato e quindi senti magari un po' più di acuti rispetto all'altro, ma le modulazioni sono tutte uguali. Avanti Muroso. Perché i microfoni sono tutti uguali, non cambia niente, capito? No, non c'è problema, va bene così. Avanti, bombo! Papà, adesso io mi sto risolvendo un po' di cosette e poi proviamo con un altro apparecchio di chi ti tocca, che sei tu. A vedere se si pompa dai nocchi. Già va bene. E a voglia si pompa. Papà, io penso che non che pompi a voce. E tu elimini tutta quella roba che hai. Il segnale è uguale a come quando tu attacchi un 747, solo che non c'hai niente attaccato. È lì il problema, capito? Hai una radio che comandi i suoi watt, la metti a 50 watt e tu sei, come dice il caro Natanino, che mica con nada. Cappa, ma io penso che li dia anche in modo diverso quel tipo di radio lì, penso, cioè, e spinga un bel, cioè, 100 watt per dire 100 watt davvero. Ma tu non la puoi mettere a 100 watt, perché tu se prendi una di quelle radio, sono sicuro che fai danno. Ricordi sempre che quella radio non va tenuta a 100, nessuna radio va tenuta a 100 watt di portante. Capito? Quella radio fa il suo lavoro, tu la metti a 30-40 watt di portante, muta, e poi quando parli va a 70-80, la devi usare così. Non ti puoi permettere di metterla a 100 watt e metterti a parlare, perché bruci i finali. Cappa! Sto dicendo io, secondo me sono un mio coso strano, ma secondo me quei watt di quella radio li dà in modo un po' diverso da queste, o la mia impressione, beh. Sono effettivi perché spingono nella maniera di un HF, se tu la metti a 50 watt, 50 watt ti dà, se la metti a 100 ti dà 100 watt pieni, ma non ci puoi modulare a 100 watt, capito, di portante bianca, perché crepi tutto, sono radio che devono possono andare intorno ai 40, 50 watt, non di più, 60, 70 watt, va bene così, io ce le ho regolate così, non le metto mai intorno a 100 watt, io, sappilo, perché puoi fare danno. Avanti, doppio rumo, che cambio radio intanto, metto l'Inuit. Sì, vabbè, ci vanno bene tutte, dai. Perché altro che ti vuoi pigliare il capo? Sì, appena che mi risolvo un po' di cose, stavo pensando di prendermi un keyboard. Non ce l'ho mai avuto in vita mia, ma che faccio l'antenna? Ma che faccio l'antenna? Me lo può subulino una radio del genere? Io penso di sì, dai. O no? Tu via, sì. Vabbè. Metti ok, tutto c'è qua come bisogno di lineare di noi. Siamo qua con l'Inuit 294, cambio. Questo è l'Inuit? Sì, sì, questo è il 23 canale, Inuit 294. Tanto io come tua antenna per antenna. Stavo schiacciando, ma ho sentito Antonio che stava parlando con Gianni, quindi mi sono bloccato. Inuit 294, sempre, sempre, sempre, MB più 5. No, questa è un'altra categoria, rispetto agli altri due è tutta una sua musica. Cioè ancora più forte dell'altri? Questa è molto più bella e più forte, è proprio bella, bella radio questa. Oh, io, eccola a me, agito, mangio di tutto io, trattare baracchini. Avanti, muro, so, questo è il 294. Beh, i segnali sono sempre uguali, perché uno l'antenna è sempre uguale, poi l'estate vediamo di fare qualcosa, però perché mi sono rotto le palle di stare a commutare e fare, sicuramente monterò l'altra mantova a fianco a quella che ho già, e uso una mantova, la lascio per i K, se me li tengo quei due K, non lo so, dovrò decidere, quindi se mi tengo quelli metterò una mantova per quelli e l'altra mantova per i baracchini. Capito, però l'antenna è sempre la stessa e i watt sono sempre gli stessi. Massimo che danno sono tutti da 4, 5, 6 watt, non di più. Quello che dà più watt di tutti è l'Elbex, che ne dà 12. Però gli altri sono tutti sopra i 5 watt sicuramente, ma ce n'è anche qualcuno sotto i 5 watt. Avanti, doppio room, questa ti piace? Gianni? Vabbè, già! Deve essere al telefono, vai, riprendi tu Roberto, quindi confermi che questa è molto bella la modulazione. No, questa è bella, bella, bella, sembra un apparecchio superiore. Le altre vanno bene, ma questa è di gran lunga superiore. Lo so, tanto è vero che quella è la radio, una radio che io uso molto spesso, anche se non lo dico, ma quando sono con i baracchini, quando non sentite il beep, o sto usando il 574, o il Pony, o quella lì. Però questa è una bella radio, funziona molto bene, poi è nuova, a dire nuova è poco, perché grazie a Gianni proprio Capri 2 e Claudietto mi hanno procurato il frontalino nuovo dentro la busta e Luca Flipper me l'ha cambiato e la radio è diventata immacolata. Ma se tu il tuo Pony, hai visto quanto è nuovo, Robè? Nuovissimo, perché veramente è molto bello, nuovo. L'Inuit che è ancora più vecchio del Pony è ancora più nuovo del Pony esteticamente. No, questa è bella, mi piace molto perché è molto naturale, la voce pulita, sembra un apparecchio più, diciamo, di altra categoria, dai, di altro rango. E sono contento. Avanti Claudie, hai visto? Ah, gallina vecchia fa buon brodo. sì, già la conosco. Avanti, Lu, tu sei, che voleva entrare, avanti. Mi sembrava Giulio a me, avanti. Telefono, telefono. Ciao Giulio, buonasera. Telefono. Ho capito, che le abbozzi? Giulio ha letto il telefono, ha letto. Ah, è al telefono, ho capito, va bene, va bene. Siamo qua, avanti Gianni, doppio numero, riprendi. Che è successo a Gianni che è sparito? Gianni? Gianni stava prendendo qualche radio. No, aveva il telefono, ha mancato la luce, Gianni non se ne va mai così, senza di nulla. Prego, avanti il break. Buonasera a tutti. Avanti, chi è? Danilo. Oi, ciao Danilo, buonasera, ben ascoltato, cordialità. Sono io, Roberto Quadrato, Gianni Doppio Rum, che è sparito momentaneamente, Claudio da Muros, Antonio Bombolo e Giulio che è al telefono. Vai per chi vuoi. Sì, ho appena acceso e stavo già iniziando ad ascoltare qualcuno. Ehi, ehi, va bene. Poi ti faccio sentire il Galaxy se ti piace, questo è un altro tipo di radio, un altro tipo di, ho sempre un vintage, un Inuit 294, 23 canali. Avanti Robè, fai girare tu, dai che cambio radio intanto. Ciao Dani, ben sentito. L'altro giorno ero da Macello, ti ho visto, ho detto forse non mi ha riconosciuto, c'avevo anche dubbio io perché eri col casco, c'era Coso, Tore, radio, ma non è Coso, non è Dani, sì, forse o non mi hai visto o non mi ha riconosciuto Dani. Oh, sicuramente non ti ho visto, perché quando si è sotto la gru bisogna pensare chi che fende lo gruista. Sicuramente. Ma di qualcosa tra l'icetto, chi è che avevi poi quello in alluminio, Dani? Sì, gliel'ho chiesto a Luciano e mi ha detto di aspettare un attimino che è troppo incasinato e non mi può ancora dire esattamente il prezzo. Che cos'è? È roba di orologeria. Ma cosa un attimino? Ma tu sei amico di Cosio, Danilo? Sei amico di Daniele? Daniele? Tu? Fatino. Qua conosco mezzo Sassari e ricordarmi tutti quanti un macello al nome. Quello che faceva il buttafuori. Daniele faceva il buttafuori. Daniele, Fatino, ti conosci. Non me lo ricordo, non me lo ricordo. A ricordarmi a tutti un macello, sono già 20 anni più o meno che gli ho persi un pochino di vita a tutti. Io lavoravo un bel anno da tavone. Qua, la verità, non me lo ricordo. Vabbè, non se lo ricorda, dai, pazienza. Allora, questo è Tunnel più 3 con il Galaxy. Com'è, Robert? Questa è una bomba, fortissima, più forte e più naturale. Hai visto? Che abbinamenti che abbiamo, dai. Dani, questo è il mostro di chat, se lo volevi sentire. Già esce bello forte. Ha voglia che esce bello forte. Bigliato non ha scelto mai, guardi che l'ha già attaccato, però... Adesso guarda che me lo tocca. Abbiamo tolto i maniglioni, me li ho tutti già preparati e... Adesso le do una passata di vernice, io tutta lucidata, è bella, veramente bella, nuova, funzionante. Ma la cosa bella che c'ha questa radio, Dani, sono le luci. Minchia, finalmente vedo uno Smitter, cazzo. Com'è, bello? Com'è radio, com'è qua? Dimmi la verità. Bella, mi piace un bel perché è completa, no, ma poi c'ha le luci belle bianche nello Smitter, negli Smitter, quindi vedo bene i segnali, tutto, capito? Con i baracchini che io mi gli unici sono il Litec che c'hanno lo Smitter grande, il 294 e il 574. Cazzo, il Pony mi fa impazzire a chi non lo vengo. Lo standard non ne va vedemmo. Il patch è più o meno sì. Quello che vedo molto bene è questo, è il DAC, gli altri non ci vedo un cacchio, capito? Quindi è per quello che uso sempre questi tre, più o meno questi quattro, compreso il DAC, dai. Va bene, facciamo girare, vediamo un po' se Giulio ha terminato di telefonare, anche Gianni Doppio Room, boh, non lo so, Giulio? No, non posso continuare, dai, continuate voi, saluto tutti, ma non posso continuare. Va bene, come voi siamo qua, avanti, Claudio Damuros. No, ce l'avevo conosce Pescidi perché l'avevo dato a Gavino di Porto Torres, a Joker. Io mi sono preso un Tanner più 3B, quello nero, nuovo nuovo, funziona magnificamente bene. I Tanner sono tutti buoni, i microfoni se sono originali non ci hanno messo le mani, vanno tutti bene, tutti quelli che ho sentito non posso dirne che è bene, tutti gli abbaracchini si atta bene con tutte le radio, poi se c'hai tipo quei pace, quelli vecchi generatori è meglio ancora, è una bella, un bel microfono, molto robusto, fatto bene eccetera eccetera. Ok, vediamo se il doppio rum è rientrato, se no riprende chi c'era, Danilo, avanti il doppio rum, vai Danilo. No, in poche parole, cra, ti stavo dicendo, i LED, quelli lì, li avevo sistemati appena me l'aveva data la radio, perché come l'aveva accesa erano spenti, diciamo, là. Era quella lampadina gialla che non si via nulla. Dovevi buttarci l'occhio sopra per vedere lo smite. È salita il pallino a testa, l'ho cambiato, gli ho messo quei LED. E sono perfetti, proprio si vede bene, bene, bene. No, no, guarda, è una grande, ma poi è bellissima perché è bello bianco lo Schmitter, capito? Non è giallo, si vede molto bene, luce bella intensa, bianca, bella, poi combacia bene con il verde, col giallo del, del frequentimetro del, dei canali, no, no, va bene. Ottima, ottima, ottima radio, Dani. Mi gioca sul caldo il giorno, te l'ho detto, siamo usciti per telefono, ha suonato la cena, l'hanno andato in via, ha detto, mamma mia, cosa è successo qua? E invece c'era un filo che stava toccando e quindi no, non mi dava l'alimentazione. L'ho rifatto nuovo, è tutto a posto. Non problema, sono contentissimo, vai sereno. Avanti a chi tocca. Robert, riprendi tu e vai per Muros, dai, se Gianni non rientra. Ehi, ok, no vabbè dai, cioè, è bella questa, sentirla questa radio di vecchia generazione, soprattutto quando si fanno i belli abbinamenti come li avete fatti adesso, sono belle, perché molte volte si mettono microfoni e fanno i fifu, escono male, rumore di fondo, effetto camera, ronzio, eccetera. Quando la radio è regolata bene e trovi giusto abbinamento, è inutile toccare, stare ogni giorno prendendo, facendo, infatti molte volte mi lamento con quelli che stanno sempre toccando, ho trovato il giusto abbinamento, no tu canuda, hai fatto tu bene, c'hai 7-10 radio, quante ne hai in fila? Ognuno ci ha messo il suo microfono, regolato, schiacci e vai, non stanno di tu che e Fendi, che non va bene. Ok, di nuovo a te Muros. Anche quello è praticamente in ferro, però è di colore, il color legno, è nuovo, nuovo, nuovo, anche lì c'è l'MB più 5, se mi dai 2 minuti ti faccio sentire anche quello, ma ti ripeto, io lo sbaglio, non l'ho potuto fare, perché Robè? Ho preso un unico MB più 5, ne avevo 3, allora, sì 3, quello del DAC, non mi ricordo, comunque avevo 3 MB più 5. E in pratica uno che è la mia fortuna, tranne l'Intec, che hanno tutte la stessa connessione, tranne il Galaxy, che vabbè l'ultimo arrivato, avevano tutte la stessa connessione, quindi che cosa ho fatto? Ho provato tutte le radio con lo stesso microfono, rendendomi conto che andava bene con tutte le radio, quindi ho detto, ah così è, perfetto, allora adesso un microfono per ogni radio, e ho preso tutti MB più 5, l'unico MB più 4 che c'è, sullo standard, ok, sullo standard, che ha la modulazione molto più corposa, non avendo i toni, e basta. Quindi sono tutti uguali i microfoni, tutti MB+5. Adesso comodo ti faccio sentire il patch, Claudio, dammi un minuto, ok, avanti, vediamo se è rientrato Gianni, se non riprendi tu Antonio. Un attimo, sono al telefono. Capo, dai, io vi devo lasciare che è venuto un amico a casa. Ci sentiamo dopo, ok? Eia. Io ho cambiato già da un po' il microfono, probabilmente nessuno se ne è accorto. Questo è il suo originale di questa radio. No, sempre cavolo. Prima c'avevo la Dunis, adesso le 60. Prima la Dunis. E a orecchio le ho fatte, mi sono ascoltato, ho fatto più o meno la stessa cosa, ho cercato di fare, non so se sia il livello microfonico più alto o più basso dell'altro, perché c'è molto margine di miglioramento nell'altro, nella Dunis, sono proprio al minimo. È un'altra radio che non si può dire. L'ho attaccato, sì, già da poco fa. Allora, questo è il patch 2008, sempre con l'MB+5. Tenete conto che questa è la più vecchia che ho, questa è la più vecchia che ho, non ha Mickey Gain, non ha niente. Tra l'altro c'era un filo che stava toccando sulla cassa e quindi gracchiava, e se l'ho messo a posto. Questo è il patch 2008R. Sì, bellissima anche questa, niente da dire, sono tutte e due belle, le ultime due sono le più belle che c'ha Claudio. Qualche microfono, sì, +5 +4, Claudio. No, sempre con l'MB+5. No, bella, tutte e due belle modulazioni, più naturali sono rispetto alle altre, forti e naturali. Bene, sono contento, dai, almeno so che funzionano tutte. Poi c'è il 3104, l'Inte, che anche lì c'è l'MB+5, anche quello già esce bene. Avanti Danilo. Danilo non riprende, avanti Gianfranco, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Una domanda a Claudio, non è che ti ritrovi un'antenna veicolare di quelle corte, ovviamente, non di quelle di un metro, di banda, eh? Ascolta, quella che hai fatto tu lo stilo, cos'è? Mi banda quella, sì. Quella che ho fatto io lo stilo, non me lo ricordo qua, perché mi si è rotta la mia. Sono andato in un supermercato dell'accidente, c'hanno i tetti bassi e me l'ha distrutta. Gemella di quella che hai distrutto, la vuoi? Te la do domani? Se ce l'hai, tanto che sto a ordinarla, una serie, perché quelle che vendono sono, guarda, lasciamo verde. Gianfra, uguale a quella che hai distrutto, precisa identica, bibanda, connettore PL, gemella di quella lì. Adesso la tolgo dentro l'armadio, domani mattina ci sentiamo e te la do, ok? Ok, se non ti serve, è sempre là. No, non ti preoccupare tu, serve o non serve, adesso serve a te, a me non mi serve. Ok, va bene, riprendete pure, scusate se ho interrotto. No. C'è anche a me Gianfranco, la trovo 2000 euro sotto il parcheggio di città mercato, la stessa cosa. Ah, mettono quelle travi, sono micidiate da me, da coso, da Carrefour. Ero di sotto, sono e siccome ce l'ho attaccata a PL proprio, c'è il rischio che ingobbi la capotta anche. Vabbè, pazienza. Si è piegata o spezzata? No, si è solo piegata, però è molto rigida e adesso non risponde più dal punto di vista delle stazionarie. E questa è la quarta, quinta che faccio così. Anzi, se ne pure antenne disgraziate, te ne do un pochettino in cambio. Già lo sai, non abbiamo problemi, l'ho già tolta. È qua pronta, domani mattina ti chiamo e te la do. Ok, va bene, dai, domani mattina ci sentiamo. ma anche domani pomeriggio. Come voi, non c'è problema, non c'è problema Gianfra, capito? Non c'è nessun problema. Ok, perfetto. Per notizia, in alto ci sono tante telefoto, ci sono i russi sui canali alti a 27.700. Oh, e poi ci facciamo un salto a vedere, questa è gemella di quella che hai rotto tu, capito, con l'acciaio inossidabile, stilo unico, bibanga, dai, vuoi. Ok, chi c'era qua? Io sono entrato un po' a gamba tesa, diciamo così, dai. Riprendo io, ciao Gianfranco, ben sentito, Roberto da questa parte, poi c'è Danilo, Danilo Piorum, Claudio Lamuro, direttore di controllo, credo non ci sia nessun altro, ti rilancio a Danilo che è in parcheggio e poi a Muros. E non è andato via. Ciao Gianfranco. Ciao Gianfranco. Vai Danilo. Tu, non so chi ci sia, avevo sentito anche Alessio un poco fa, non so se ci sia ancora. Si è allontanato, no, ho rilanciato a Danilo per Gianfranco e poi Claudio Di Muro. Vai Danilo, non c'è, vai tu Claudio. Sì, ciao Claudio, ben ascoltato. Buonasera. Una curiosità, siccome ci banco spesso lì, tu sei vicino al murale, vero? E tu hai l'antenna Mantova 1 che c'è? Tutti li conosco, riprendi torre di controllo e dammi le coordinate d'atterraggio. Guarda, atterraggio dovrebbe essere Piazzuola qua al Domoro, se aspettano a prendere in pieno quella signora che è col cane, tieniti un po' largo, ma comunque ce la dovresti fare. Rettifico, non si chiama 2008, questo è un patch 2000 DX 2003B, sempre base Claudio, capito? Ho sbagliato io, questo è il 2003B, DX 2003B. Avanti Gianni Doppio Room, riprende e fai girare. E non risponde nessuno, abbiamo chiamato Danilo, avanti Danilo, se ci sei. Sì, sono mancato un attimino, sono andato a spegnere il sugo. Niente, sono arrivato adesso, ho continuato a parlare. Andare. Avanti Roberto, riprendi tu. Dai, riprendo perché sto uscendo, dai, ci sentiamo, vabbè stasera non credo, naturalmente domani, ciao a tutti, ciao Gianni, Claudio Di Muro, su Claudio Torre Controllo, Gianfranco, Danilo, chi c'è poi, Antonio Bombolo, tutti quelli che sono in ascolto, cuoriti da parte mia, ciao ciao. Ciao Roberto, ciao, ci sentiamo, buona passeggiata. Sì, ciao Roberto, buona serata, alle prossime. E così. Claudio, stavo pensando che gira mi conviene toglierlo il PL come antenna e metterci e iniziare a usare le altre antenne, quelle con attacco solito, no, come si chiama? Con la farfallina per intenderci. Almeno se sbatti qualcosa si piega e boh, e non succede niente. Sono tornato col Galaxy, va bene, gli altri ve li ho fatte sentire tutte, il 574, il Pony, l'Inoite, il Pace, basta così per stasera, eh? Adesso modulo con questa bestiolina che mi piace di più, più compatta, e l'unica è mia, Gianfra, l'unica, vabbè, no, quella lì se ti ricordi, è quella gemella di quella tua, capite? Quella lo stiro in acciaio inossidabile lungo con l'attacco PL, quindi ti do la stessa antenna, così no, non ti ricordi che l'hai rotta. Marca c'ha? Ma se l'hai fatta tu che marca può avere? Ah, l'ho fatta io, allora va sicuramente bene, io me la volevo rifare, però guardate ho finito l'acciaio, lo prendo l'acciaio quello fino, proprio per fare antenne, diciamo, da quelli... acciaio, insomma, tipo le grondine che mettevano una volta, perché a meno quello si inclina, se sbatti, mentre quello che ho io è rigido, maledetto. Questa è uguale gemella di quella che hai rotto, tu l'hai fatta tu, mi hai fatto Matteo a me, se ben ti ricordi, quando avevo il VEU in macchina, e va molto bene, io non l'ho toccata per niente, capito? Quindi va bene, devo spostarmi un attimino di canale, che mi hanno mandato un messaggio, devo fare una prova, ma 5 minuti e sono qua. Ok, il cambio per te Gianni. Io stavo facendo una telefonata, vabbè. Andami Claudio, dai, lasciamo qua, non c'è problema. Avanti Gianfranco. Sì, fai pure Gianni, non c'è problema. Soprattutto se è una telefonata con qualche signorina. Non la far aspettare, ecco, per colpa nostra. E la città è 52 anni. Vabbè, l'età non conta, l'importante è che sia piacevole, ecco. Sono donne di 52 che danno punti a molte altre molto più giovani. Sì, ti posso dire di sì, già. Ok, a che aspettava, mamma mia. Claudio Di Muros. Ok, dai, ci sentiamo la prossima volta, Antonio. Alla prossima, ciao. Sì, quello che ha parlato era Claudio, comunque. Ah, Claudio era. Sono con rimbambito, non mi metto subito il nome. Quindi tu sei tu, Antonio, giusto? No, sono Gianfranco. E te la giusto che sono con rimbambito pure il nome. No, comunque tu Gianfranco e lui era Claudio da Muros, giusto? Confermo. Poi c'è Gianni che ha il telefono. Invece tu di dove sei, di? Io sono di periferia di Sassarimanno. Che zona esattamente? Verso Prato Comunale. Ah, quindi sei la parte opposta da me. Come ti arrivo come segnale? Fammi questa cortesia. Anche di radio. Radio 5, segnale 9-10. La mia potenza d'uscita è circa un watt. Abbiamo lo stesso segnale allora. No? Anche a te ti prendo 9-10. Invece poco fa Claudio da Muro se lo prendevo a 9. Perché qua la mazza un po' così. Non mi vorrei dimenticare qualcuno. Chi c'era poi qua? Se faccio avanti, se abbiamo dimenticato qualcuno. No, negativo, allora i conti tornano. Niente, quindi tu in che zona mi hai detto che sei? In poche parole sono sotto Sant'Orsola Nord. Sotto Sant'Orsola Nord, che tra l'altro vedo che vi hanno anche chiuso la strada per uscire là sulla 131. No, quella lì è Sant'Orsola Storica, che dopo porta a Sant'Orsola Sud. Visto che hanno chiuso la strada, che è frenato un pezzettino di strada, dove c'è il passaggio di livello di Porto Torres. Poi se continui dritto vai a Sant'Orsola Storica. Se giri a destra vai a Sant'Orsola Sud. E da Sant'Orsola Sud, se giri a sinistra, vai a Sant'Orsola Nord. Io in poche parole sono sotto Roda Quata. Più o meno ho capito, ma... E quindi sei lato Buddy Buddy, dai. Sì, esattamente. La Buddy Buddy ce l'ho davanti a me, in poche parole. E comunque sei sempre a Sant'Orsola, diciamo, perché se vai oltre, come hai detto, Roda Quata è a destra praticamente dalla Buddy Buddy scendendo, giusto? No, scendendo Roda Quata è a sinistra, la stazione di Roda Quata è a sinistra. Sì, diciamo, tu sei in quel palazzino dove c'è il supermercato, dai, che c'è lì anche la pista ciclabile. No, non sono in palazzina, io sono in campagna, sono isolato da tutti. Allora è giusto, scendendo, cioè dal rifornitore per intenderci, dalla body body, quello sopra, però il primo che incontri, scendendo dalla rotatoria del poligono, per essere chiari, c'è il primo rifornitore che è a destra, poi se scendi tutta la campagna è a destra, perché a sinistra ci sono solo abitazioni. No, ti stai confondendo, aspetta. Fai via poligono, giri alle luci gialle a destra, trovi il primo rifornitore, continui ad andare più avanti, c'è la rotatoria che fa sorcio Budi Budi, scendi per la Budi Budi, c'è il primo rifornitore di Mario Murgia, poi c'è il secondo rifornitore della... che ha cambiato gestione, mi viene il nome, e lì davanti, appena subito sulla sinistra. Sulla sinistra, ho capito, allora sì, dove c'è la strada incompiuta, dai, diciamola così, dove si entra salendo dalla Budi Budi, perché da Graziella non si può più passare in salita, e quindi sei lì, le uniche campagne che conosco sono lì, le altre sono tutte a destra. Sì, bravo. Se tu guardi appena incominci il curvone, lì a sinistra ci sono delle antenne, quelle sono le mie. Ah, ho capito. Di lì, adesso non ricordo bene se c'era una volta o se c'è ancora una specie di stazione ferroviaria o cos'erano le palazzine, non so. Sì, quello lì c'è ancora, Roda Quata è quella lì, la stazione di Roda Quata. Ho capito, però il treno non credo che si fermi, o si ferma? Sì, si ferma, è a voglia che si ferma. No, già si ferma ancora lì per fortuna, già c'è la fermata. E forse faranno anche Sirio più avanti, perché qua a fianco a me c'è il doppio binario, c'è sia quello di Sorcio che quello di Sirio. Quello che si ferma lì è sempre quello che fa Sorcio, no? Interrogativo. Sì, in poche parole fa, dalla stazione alla stazione di Sorcio. È sempre quello lì il treno. No, ho capito. Sì. Beh, arrivi bene comunque, quindi c'è un'antenna, potrebbe essere un po' manto qua uno, dai. Ah, è una Game Master autocostruita, la sono rifatta io. Ah, ecco perché arrivi più forte di quanto previsto. Anch'io sto usando una Game Master, però è l'originale. Ah, l'originale c'hai, ah, No, io pensavo che anche tu avessi tipo manto e roba così. Boomerang, no, ma già esci bene, c'hai anche 9 più 10, è un buon segnale. Beh, ti presente che io sto uscendo con un watt, quindi è una potenza ridicola. Se vuoi, guarda, adesso ti faccio vedere, aumento un pochino, così facciamo vedere quanto poco conta la potenza. Ecco, guarda adesso cosa è successo, se è aumentato qualcosa. Sì, appena è cominciato a toccare è salito a 9,20, però radio sempre perfetta, 5. Sì, sono 10 watt appena, potrei aumentare anche di più, però no, però basso, perché non mi piace. Che ho fatto? Ecco, rimettiamo un watt, che ce n'è avanti. Ecco qua, no, così è troppo, guarda, adesso metto 0, Ecco, sono circa 20, cioè meno di mezzo watt. Sì, già si sente anche un fruscio di propagazione sottofondo, ma leggero, come se si è già mezzo watt. No, lascialo a un watt che va bene. E io allo stesso mi sono con 5 watt, non è che ho molta potenza. E a 5 watt e va più che bene. Lo posso aumentare ancora di più, ma lo lascio così e va più che bene. Sì, ecco, sono tornato a un watt. Ce n'è abbonda, tanto non bisogna passare nessuno. Tu da quella zona dovresti ricevere molto bene il mare, diciamo, tutta la parte. parte di Platamona, Porto Torres e così via. Sì, io per adesso lì in quella zona già ci vado poco, ci sto andando poco. Adesso come incominciano le belle giornate incomincio a scenderci anche io e provo a fare questo o anche da quella parte lì. Sì, io dicevo che comunque da quella stazione nel base, da quella posizione in cui sei, io dicevi bene Porto Torres, eccetera, non è ostacolo in parole povere. No, ma anche Trentino, senza problemi, perché diciamo l'anno scorso, 2020, sentivo uno di Trentino che stava facendo delle prove radio. Sarà stato qualcuno in qualche seconda casa, perché in questo periodo penso che sia molto utile anche lì. Quindi è così. C'è una discreta propagazione, non è fortissima, però si riesce a sentire qualcosa. Sopra ci sono i russi che stanno anche giocando, mandandosi foto. E poi ci sono anche dei francesi, ho sentito, in banda laterale. Ah, quindi a 27 400 in più? Sì. Le telefoto le stanno mandando a 27 700. Mentre i francesi erano a 27 500. Poi sono tutti i canali, molti stanno, ho notato, stanno trasmettendo sul mezzo canale, capito? Noi ad esempio siamo su 27.075 e loro sarebbero su 27.70, quindi sono frequenze un po' spostate, forse per non essere disturbati. Sì, probabile che hanno quei 5 MHz o kHz di differenza. E infatti noi che siamo vicini, se ci spostiamo anche a 80 o 85 si sente appena appena, si sente che siamo vicini e la propagazione è lì davanti. Infatti, sono comunque dei bei segnali e quindi è divertente anche quello, vedere un po'. Mentre sotto ci sono sempre tutti i segnali dei tedeschi, circa persone e compagnia cantante. Loro ogni tanto già si fanno sentire. No, l'altro giorno, adesso mi ricordo se è domenica questa o domenica scorsa, mi sa domenica scorsa, due domeniche fa, poche parole, stavo ascoltando lo stesso, però in 40 metri, di... adesso mi viene il nome, i tedeschi, Germania. Arrivavano proprio a belli massicci, a 9.20, 9.30, belli forti erano. Sì, dove ero? Su canale 40, così? No, sui 40 metri, a 7 MHz. Sono rientrato, Sì, ciao. Sì, ho visto che stavi armeggiando su, giù, a destra, a sinistra. 40 metri, quindi. Ok, ma devi c'è l'antenna oppure tu ti seguiva lì per fare ascolto? No, c'è l'antenna da filare, in poche parole mi fa tutte quante gli HF, ma di fuori che 27 mega. No, io ne ho tre di quelle antenne in HF, due filari, sperando che il vento non le abbia danneggiate, perché sono molto lunghe, 80 metri ciascuna. E una verticale con accordatore navale sotto che fa tutte le frequenze in continuo. Ok, è entrato anche Claudio. Avanti Claudio. Ciao, ma c'è rimasto qualcuno qua? Sì, no, io mi sono spostato sul 40 un attimo che Luca mi ha mandato un messaggio che doveva fare una prova con una radio e quindi ero lì sul canale 40. C'è rimasto qualcuno qua? Sì. Danilo. E voi, tutti gli altri andati via. Gianni sta moreggiando al telefono. Ecco, ecco. E mia, bulldozer, avanti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Massimo, buonasera, ben ascoltato. Sono io, Gianfranco e Danilo. Avanti. Ok, c'è questo microfono. Aspetta che cambio il microfono, aspetta. No, ormai ti sistemo anche quello. Oh, Claudio, adesso mi è venuto a mente che ti devo chiedere una cosa, una curiosità mia. Tu lo sai, il canale 9 è a 27.095, se non ricordo male. Puoi controllare se senti una piccolissima portante, molto piccola, perché io vedo sempre questo segnale interrotto e non capisco se è una cosa che c'è qua o seppure effettivamente, perché con tutti gli apparecchi lo sento. No, 27.095 alfa, è il canale alfa. 27.065 è il 9. Sì, allora l'alfa, e allora è sicuramente qualche cosa di strano che c'è, qualche telecomando, perché c'è sempre questa piccola portantina lontana, però a volte diventa forte, sale di segnale, con la propazione a volte scende. Tu non ce l'hai, quindi già è vero che non ce l'hai quella frequenza. No, io sono qua, Gianfratto, l'ho letto. Sono un CPTO come gli altri. 27.065 è il canale 9, 95 è quello alfa. Forse c'è qualche netto di qualcosa, capito? Vediamo Massimiliano se ha messo a posto il microfono, poi vai per Danilo Massimiliano. Sì, dai, buonasera a tutti. Saluto a Gianfranco, saluto anche a Danilo, va? Cambiato. Ottimo per la truppa, va bene. Avanti, io Dani. Sì, ciao Massimiliano. Sì, già l'ho sentito. No, l'altro giorno, Claudio, io ti stavo dicendo, l'altro giorno, ieri. Sì, ieri. Che il vento di ieri notte. No, stamattina te l'ho detto. Che il vento di ieri notte me ne ha buttato l'antenna. Buttato, è rimasto un tassello solo attaccato su 4. E per fortuna non è caduto sopra i cavi elettrici. Quella che mi ha detto, ma il vento ha fatto un casino nero. Dani ha fatto un casino nero, non so, con abitazioni nella zona di Punti, anche qua nella mia zona, nella zona alta, su dove abita mio cognato, via Pietronini, lo stesso ne ha buttato due alberi, sono cadute su due macchine, la disintegrati, due eucalipto, capito? Fatti una vigile del fuoco, anche il cognato tutta la mattina, liberando e facendo, perché è una strada che si entra appunto dentro, poi esce da Piazzale Segni, un casino con la strada, è anche molto stretta, quindi era bloccata, ha fatto un casino, il vento va veramente forte, poi questo libeccio io lo odio, libeccio di una forza allucinante, e perciò è fattibile, poi quelle tipo di antenne lì flettono parecchio, quindi se non sono ancorate bene te la strappa, a me la 510 perché me l'ha strappata, perché era leggerissima, ne metto due staffettine, le prime raffiche del vento che piegava, si è portato via anche le staffe, si è appoggiata a terra e si è spezzata la punta, ecco perché l'avevo rimesso la punta come ci avevo, capito? Avanti Massimi, tutto a posto, hai mangiato? Ehi, a voglia, ho mangiato, ho digerito, ho dormito, ho preso caffè e tutte cose, là. Sì, a posto. Non è piace il tuo microfono, comunque. Domani me lo metto a posto quello là, così non aggiungiamo. Io non sono uguale all'altro. No, non è uguale all'altro. Questo è un CT e l'altro è un altro CT, però c'è diversa capsula, capito? Quell'altro spinge un po' di più. Va bene, avanti Gianfra. Sì, ciao Massimiliano, non ho ascoltato. Claudio, mi sa che hai fatto in tempo in testa a toglierne quelle antenne là, quelle direttive, perché a prescindere dal palo un vento del genere traccia tutto. Anche poco fa che stavo controllando l'antenna, ogni tanto ne arrivavano questi colpi di vento micidiali. Così alla sconfidata, no? Ne è arrivato uno che sono dovuto fermare perché sennò mi faceva cadere. Così, a raffica, a volte non c'è niente, a volte ti arriva questa specie di cassotto addosso, micidiale. Non so se fa. se continua questo vento, ma penso di sì, No, ma per carità. Io sono Renato, guarda, sono la Mantova, su due pezzi di filo e due antennine piccoline di 2 metri. Stamattina c'è un vigile del fuoco nel tetto, figurati. Però nell'altra scala, quindi nell'altra mansarda, sono entrati da lì. Perché si è staccato dai tasselli il coprigrondaia che è in alluminio, capito? Quindi era tutta la notte ballando, boom boom boom boom boom boom. Stamattina era la punta fuori dal cornicione, a me non mi hanno detto niente perché non è la mia scala, è l'altra scala, quindi non me ne ha fatti nulla. Se fosse stato dalla parte mia sarei salito io, l'avrei preso la tronchesina, l'avrei tagliata, non me ne frega niente, infatti domani viene l'amministratore che la fa mettere nuova. E sono venuti in vigile del fuoco, non fatti salire perché nessuno, a parte io, forse qualche d'un altro, ma non penso, a parte io, sul tetto hanno paura tutti di andare. Poi c'era ancora vento stamattina, il tempo era brutto, quindi hai chiamato i vigili del fuoco, abbigliato la gioia, arrivederci, buon viaggio, l'hanno lasciata lì. Perciò sta facendo un sacco di danno a sto cazzo di vento, speriamo che si abbassi un po' e che ci dia tregua. Avanti Dani. Speriamo che scenda, perché è troppo forte questo vento, è dannoso. Ma pensa qua dietro casa, sulla Budi, dalla parte di sinistra però, della Budi, scendendo, ci sono due alberi che sono già proprio sradicati dalla radice. E per fortuna non sono caduti sulla strada, sono caduti un paio di rami sulla strada. Però se passi proprio nella via di campagna, che guardi sopra la Budi, si vedono proprio le radici che sono proprio attrappate dal terreno. E gli alberi coricati sopra il guardrail. È forte, è forte. L'imbeccio poi è forte. L'imbeccio, quando c'è l'imbeccio è un casino, a me mi fa un sacco di danno. Meno male, ti ripeto, io sono riuscito a togliere tutte le antenne, mai più in vita mia, ma come fai a 40 metri di altezza montare delle antenne del genere? Ma non ci sto manco pensando. Va bene così, quella filare che c'è, se la uso la uso, se non la uso rimane lì, non dà fastidio a nessuno. Però la Mantova, per come è messa, stai tranquillo che ci vuole la bora di Trieste per buttarla giù, se ce la fa, ma non il palo, le staffe che ci Massimiliano me la strette a morte, la purubigiata. Ma quanto riguarda l'antenna è molto molto robusta, o spessa l'antenna o non fa niente, perché il palo sicuramente non ne cadrà mai. Cosa dici, Massimiliano? Ma penso che il palo non ce la faccia a tirarmelo, però claro, non si sa mai, perché ti ripeto, hai visto cosa tutto combinato agli punti, tutte quelle antenne che c'erano tutte KO, quindi mi ha stracciato quanto ce n'era. Capi i cancelli che c'erano lì nella 131 di fronte a Piuccio Sanna, quello che fa i cancelli, li vedevi volare, li vedevi. Quindi figurati, se Simone passa la mano va mi attrazza, non è che... E vabbè, comunque, speriamo che non ne ritorni qualche d'un altro, anche perché dice che c'è un altro passaggio di questo ciclone. Vabbè, il ciclone, c'era Gavino ciclone che io ho conosciuto, non è che ciclonava molto, sì, già non si fa centrare, però la calamità naturale, come ti ho già detto, non la ferma nessuno. Quando passa e porta via, e poi la tromba d'aria è micidiale. Io mi ricordo a Valedoria, il capannone, quello grande che c'è dei carciofi, l'ha completamente scoperchiato un anno. Si è portato via tutto, prima ne ha tolto tutto il coperchio, tutta la copertura in cemento amianto, cosa cazzo era, quelle ternite, e poi prendeva tutto quello che c'era dentro e portava via. Era un mare di roba, tra frutta e verdura, c'era tutta la strada, tutto il circondario, tutto pieno di roba per terra. Avanti Gianni. Sono rientrato, buonasera a tutti i nuovi entrati, dai, saluto tutti. Doveva essere una sorta di tromba d'aria, tipo quella che quando stavano a Porto Torri su un anno, ne ha buttato gli alberi, cadevano gli alberi davanti alla macchina. c'ha più, c'ha vento, una furia, poi le curve sono sulle imbigliate, discendeva l'acqua dalle campagne, si arrivava fino al cofa. Lo so già, purtroppo non sono tornati veri e propri come succedono in America o da altre parti, ma le trombe d'aria che noi abbiamo qua in Sardegna sono molto molto forti. Avanti Massimiliano, ripeti. Sì, positivo, contro la natura non si può mettere nessuno. Va bene, domani arriva quel 44 dal Giappone o qua. È arrivata la mail e domani in consegna. Domani dovrebbe esserci anche il mio 140 in consegna. Ci dovrebbe essere anche il mio 140, perché Vittorio mi ha detto che l'ha spedito venerdì, quindi sabato era lavorativo, poi la GLS sta lavorando anche di domenica, quindi penso che domani pomeriggio dovrebbe arrivarmi, massimo martedì mattina. Vabbè, vediamo. Meglio così, Massimiliano, dai, così facciamo due prove, lo vediamo. Avanti Gianfra. Sì, infatti qua non c'è da fidarsi, perché anche se c'è il palo, poi anche se la mantova va la mantova, però la volta che è successo il vento forte me l'ha spezzata in mezzo, nonostante fosse non so se neanche alta, dove abitavo prima, ti ricordi, no? Di fronte a Gianni. Me l'ha stracciato un'antenna e meno male, io sono presidente, che dentro ci ho messo la lenza, no? Quella molto grossa, per non cadere giù, perché avevo detto se cade giù poi magari ammazza qualcuno e finisco pure in galera. Quindi sia nei radiali sia nel tubo c'era la lenza. I radiali erano tutti svolazzando, attaccati alla lenza come se fossero pesci. E lo stesso metà la mantova 1. Quindi mai dire mai, purtroppo, perché sono venti forti, ma soprattutto le fanno male queste scariche che ogni tanto ci sono, che sono violentissime, arrivano e spariscono. Quelle lì sono micidiali, perché sono quelle proprio che ti stressano i materiali. E poi niente, fanno crollare. Stamattina sono andato a vedere lì dove c'era cosa lì, ai punti, quel negozio. Era un padre adulto in segna e c'era, non so se era il comune o la protezione civile, tagliando anche gli alberi lungo la via. Un casotto. Vai Massimiliano, vai, purtroppo è così, c'è niente da fare. Diciamo che i tubi resistono sino a un certo punto, poi quando la vento è forte scoperchia anche i tetti addirittura, invece che siamo portati via anche le colonne, il gas addirittura. Quella signora, la ruota gli ha capottato, c'era una ruota, questa signora lì di fronte a centro casa parcheggiata era capottata. Eppure la casa a fianco completamente, le tegole scoperchiate, in mezzo al tetto, ha fatto un macello fatto. E vabbè, piano, là, già si rimette a posto tutto. Vabbè, che su capannone c'è ancora di quelle internet, figurati. Avanti, doppio. Viva, sono ritornato, buonasera a tutti. Che tralici, a Vuglia che ce la fa anche i tubi a piegarli, a buttarli giù. Ha buttato tralici, ha scoperchiato tetti, che è allucinante, lì deve essere proprio arrivato in pieno ai punti, è proprio, deve averla presa in pieno quella zona lì. Sì, quella zona l'ha proprio presa in pieno, già. A me mi ha preso un po' di striscio, la verità, e me l'ha stracciato un pezzo di cartone catramato dalla veranda, infatti stamattina me l'ho un po' messo a posto. Mi ha preso un po' di striscio, mancata la luce, diluvio, saette, rapide, tutto ha fatto. Chi è che è entrato? Avanti, chi è che ha la voce? Io sono, buonasera! Ciao Antonio, ti ho sentito sotto, là. C'è anche Danilo, avanti Danilo, riprendi. Sicuramente ha fatto i punti qua vicino a campagna da me e poi è passato andando verso San Camillo, però poi chissà dove ci è uscito quanto quella bufera, perché era bello forte. Tu pensa che anche qua è mancata la luce e anche da noi una bella tromba d'aria era, Ha fatto un sacco di danno, capito? Ha stracciato proprio dalla radice alberi secolari, capito? C'era un tipo che ha avuto un commento su Facebook poi di domani mattina, che è andato a fare il prezzemolo e si è